A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, un signor Napoli, superiore a ogni attesa, che ha tenuto in scacco il Manchester City, non solo, ma è andato anche più vicino a vincerla quella partita che a perderla, anche nel finale, dopo aver subito un gol francamente evitabile su calcio piazzato, quella punizione di Kolarov su cui il portiere poteva certamente far meglio, soprattutto nella disposizione della barriera. In genere una squadra, non dico debuttanti in assoluto in Coppa Campioni, ma insomma, una squadra che comunque manca da tanti anni a un quarto d'ora alla fine su un campo così, così difficile di fronte all'avversario di quella levatura, rischia di squagliarsi proprio perché c'è un episodio negativo che in genere ha dei contraccolpi. Il Napoli invece non solo ha smaltito quel contraccolpo, ma alla fine davvero è di nuovo tornata più vicino alla vittoria che non a una sconfitta, e questo è un ottimo segno anche in prospettiva. Tutto il contrario di un Inter che sembra sempre più vicina alla deriva, no? In cui nulla sembra più funzionare, né il gruppo e nemmeno i singoli. Allora, i commenti principali di questa serata, per molti versi sorprendente, per tutti e due gli aspetti sorprendente, poi certo la sorpresa vera arrivata da San Siro. Dicevo, i commenti più significativi. Uno certamente è quello di Mazzarri. Ma la soddisfazione è tanta, perché voi sapete benissimo, io guardo la prestazione, non era facile fare una prestazione su un campo così difficile, con dei valori così, contro una squadra con dei valori così alti. Prima della gara avremmo, credo, tutti sottoscritto il risultato, però nel momento in cui siamo andati in vantaggio, credo meritatamente, anche perché io sono contentissimo soprattutto del secondo tempo e soprattutto da un certo periodo in poi, dove ho visto la mia squadra giocare, ha imposto il gioco, e ha creato diversi presupposti, alcuni dei quali siamo stati un po' ingenui a voler strafare con tiri da lontano. Era da puntare la difesa, come abbiamo fatto con Maggio quando abbiamo fatto gol, un po' di più. E quindi a questo punto sinceramente abbiamo avuto la possibilità di chiuderla, non l'abbiamo fatto e dispiace. Comunque ormai a questo punto ci speravamo di portare a casa l'intera posta, insomma. Quindi c'è anche il rammarico. Legittimo, anche se mi pare che ci si possa accontentare, e mi pare anche che il risultato che meglio fotografa la partita sia stato alla fine proprio quello di parità. Semmai preoccupano le condizioni di Lavezzi in vista della partita di domenica sera con il Milan, perché il Napoli ha una serie di impegni ravvicinati ad alto livello. La caviglia mi fa molto male, ho appena letto un'agenzia in cui Lavezzi confessa che la caviglia gli duole, non c'è niente però di particolarmente preoccupante, non c'è lesione, ma certo c'è un dolore molto forte e bisognerà vedere se Lavezzi riuscirà a recuperare in questi tre giorni che mancano al posticipo della domenica sera. Tutt'altra aria tira evidentemente dalle parti di Milano. Sentiamo prima Moratti. Mi sembra che per il momento ci sia soltanto da aspettare un attimino, perché è stato cambiato un modulo di gioco e quindi credo ci fosse un po' di ritegno nel gioco, di frenata nel gioco in questo. Certo era una partita importante, però può capitarti che era una partita importante. Questo è un commento a caldo di stamane, aspettare che la squadra si riprenda, ma l'impressione è che il tempo stringa. Invece il tempo è proprio quello che è uno di quei fattori, di quegli ingredienti che nel calcio mancano, cioè non sono a disposizione di nessuno, non sono a disposizione di Gasperini per provare a riassemblare una squadra, d'altra parte secondo un modulo che pare proprio non aver funzionato nei suoi primi esperimenti. Il tempo è quello che manca a Luis Enrique, forse ne avrebbe bisogno anche in quantità superiore, no? Visto che quella della Roma è quasi una rifondazione, quella che è stata tentata in estate dalla nuova proprietà americana. Il fatto che proprio Inter e Roma si debbano confrontare nell'anticipo di sabato sera dà subito, sin da questa seconda, è la terza giornata, ma insomma è la seconda che si gioca, dà subito un tocco, non dico di drammaticità, ma insomma di forte da un punto di vista emozionale per questo confronto diretto tra grandi deluse momentanee, perlomeno. Quella di Lavezzi è una contusione al calcagno del piede destro, è arrivata è arrivata una diagnosi un po' più precisa, è il calcagno del piede destro, la contusione è forte, non ci sono lesioni però, e quindi bisognerà aspettare e vedere. Come l'ha spiegata Gasperini, che ormai capisco che faccia sempre un po' più di fatica, no? A trovare le parole. Proviamo a sentire quelle di ieri sera. Col presidente Moratti, anche questo, io ho sempre avuto un rapporto molto franco, perché nei miei confronti è sempre stato molto di supporto e molto, molto chiaro. Poi si parla di calcio, ci si confronta anche sulle situazioni, sulla squadra, e questo da 2 mesi a questa parte. Questa sera è stata una prestazione che cementa ancora di più, almeno, il rapporto mio verso questa squadra, verso questa società, perché mi dà veramente fastidio una partenza del genere, ma non per le critiche per queste situazioni, mi dà fastidio perché ho visto dei giocatori che hanno dato tantissimo e quando hanno finito la partita erano veramente dispiaciuti e rammaricati, ma la reazione che c'è stata in tutti è stata quella di: è un momento che gira male, ci combattiamo ancora di più, andiamo più forte. Aspettando i vostri commenti nella seconda parte, subito dopo il primo intervallo, e aspettando anche la sintesi di questa 2 giorni da parte di Fabio Tavelli, io comincerei a proiettarmi sugli impegni di stasera, perché è vero che l'Europa League è una parente povera della Champions League, però è anche vero che fa quoziente a sua volta, e già l'eliminazione della Roma nella prima fase, così come quella dell'Udinese dalla Champions, bene non ha fatto, no? al famoso rating UEFA, e quindi insomma, sarebbe meglio che stasera sia la Lazio che l'Udinese partissero con il piede giusto. Cominciamo dalla Lazio e da Reia. Il nostro obiettivo è quello di fare di essere competitivi in tutte e tre le competizioni. E sotto questo punto di vista abbiamo allestito una squadra, una rosa direi adeguata, pesante per il presidente, perché insomma gli stipendi rispetto all'anno scorso si sono alzati, però abbiamo portato anche delle buone qualità. Questo è il nostro compito, la mia responsabilità e quella dei ragazzi in modo particolare. La rosa è adeguata per affrontare queste tre competizioni, anche se guardavo il calendario proprio poco fa, abbiamo 6-7 partite nel giro dei 22 giorni e poi magari abbiamo la sosta per 15 giorni, no? C'è questo stacco netto chiaramente che fa sì che il rendimento non è mai alto, non ti dà tempi di recupero, e per questo abbiamo allestito questa squadra per poter fare anche dei cambi. Sono i guasti di un calendario davvero un po' tanto affollato, ma non da oggi, da anni ormai, come si sa. La vigilia di Udinese Ren, nelle parole di Guidolin. Noi ci teniamo, avremo una formazione competitiva, siamo in una nuova stagione che è difficile per noi perché alcune cose sono cambiate, la manifestazione è molto molto difficile, credo che nessuno l'abbia snobbata delle squadre italiane, è solo una manifestazione difficile, noi abbiamo un girone che è forse più duro di alcuni gironi di Champions. Non ha torto, leggendo certi giornali di Champions ho l'impressione che abbia in parte perlomeno ragione Guidolin. Piero da Torino scrive: naturalmente la colpa di quello che accade all'Inter non è di Gasperini, ma di chi l'ha scelto, conoscendo bene le sue idee di calcio. Dopo l'era Mourinho vedo solo confusione, quella che c'è sempre stata con la presidenza Moratti. Gli interisti tornano a rialzare la testa, ma stavolta in senso polemico, visto che le cose stanno cominciando ad andare seriamente male. Ranking UEFA, mi corregge un ascoltatore, non rating. Ho detto rating a ragion voluta, proprio perché a ragion veduta, perché ormai tutto è economia e finanza, e ho l'impressione che questo sia il vero parametro anche in campo calcistico. Bentornato Fabio Tavelli. Grazie, buongiorno. Per un commento generale, il primo dato che mi segnala Franco Piantanida è l'equilibrio, cioè non c'è nessuna nazione che domina questa prima giornata. Vero, un'ottima riflessione, e devo dire che quasi tutte le partite, nonostante a volte i divari fossero notevoli e a tratti imbarazzanti, si sono chiuse al massimo con 2 gol di scarto e in poche partite, cioè ad esempio gli scarti più ampi sono Villarreal-Bayern 0-2, e stiamo parlando comunque di 2 squadre di una certa caratura, e Chelsea-Bayer-Leverkusen 2-0, sì. E anche qui stiamo parlando altrimenti o pareggi o vittorie con un solo gol di scarto, ma direi bene. E poi devo dirti anche, Gigi, la qualità complessiva dei gol, che non sono stati tantissimi, molto molto alta, perché anche ieri ce ne sono stati 3-4, a parer mio, veramente di notevole fattura, anche quelli nella loro semplicità. Segnalo il gol di Cardoso al Manchester United, che è un gol che può essere fatto tranquillamente vedere a tutti i ragazzini che vogliono imparare a fare la prima punta, a fare il centravanti, e secondo me Cardoso ieri ha fatto una cosa che va vista. È vero, pochi gol, perché 32 sono nettamente sotto media rispetto al solito. In compenso di qualità, questo equilibrio si traduce nel fatto che, per esempio, non so, le inglesi hanno fatto una vittoria e 3 pareggi, le spagnole una vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta, le italiane 2 pareggi e 1 sconfitta. Questo è un dato, tra l'altro, che per l'Italia non accadeva dal 99, cioè era dal 99 che un'italiana, cioè che le italiane non vincevano almeno una partita all'esordio. Quell'anno pareggiarono tutte e tre: la Lazio a Leverkusen, la Fiorentina in casa con l'Arsenal e il Milan a Londra con il Chelsea. Comunque risultati discretamente prestigiosi, come sono stati prestigiosi i 2 pareggi esterni ottenuti da Milan e Napoli, ed è stato invece la negatività è arrivata dalla partita interna dell'Inter. Mi sembra che questo primo turno abbia detto così a spanne, anche sulla base di come sta andando il campionato tedesco, che forse tra le favorite quest'anno ci può stare anche il Bayern. Secondo me sì, e lo dico convinto. Poi è in un girone molto difficile, e quindi probabilmente il Bayern tifava perché la partita di Manchester avesse un vincitore e non 2 squadre a muovere la classifica. Però è vero, la sensazione che ha dato ieri il Bayern di Monaco, quella che ha dato anche all'interno della Bundesliga, è diversa. Io rifletto anche su questa cosa. Tante volte siamo un po' troppo impressionati, forse, o forse perché vediamo molti highlights delle partite sulla caratura delle squadre, cioè vedere gli highlights di una partita che finisce 7-0 tante volte può essere fuorviante, perché ti fa vedere soltanto le azioni da gol, soltanto le azioni migliori, e in questo caso forse tutti noi, ma mi ci metto pure io, abbiamo fatto più grande il Manchester City di quello che ancora non sia, perché io credo che possa diventare davvero grande, però in questo momento è più una squadra a lampi, è più una squadra appunto da highlights, perché fai vedere la giocata di Agüero, fai vedere la giocata di Dzeko piuttosto che di Nasri o di Silva, ma il complesso della squadra non è ancora a un livello così alto, che però io credo raggiungerà il Manchester City. Per il resto è vero, le tedesche stanno facendo bene, e il Bayern di Monaco con tutta probabilità adesso ha completamente inserito anche giocatori, cioè un giocatore come Kroos, che è un giocatore non nuovo perché ha fatto anche i mondiali l'anno scorso in Sudafrica, però è un giocatore che ha avuto il tempo di maturare, ha avuto il tempo di essere inserito e ha avuto il tempo adesso di essere titolare. Oltretutto un Bayern di Monaco che gioca in questo momento senza Arjen Robben, che ha sempre un sacco di problemi, e quindi bene, da questo punto di vista direi molto bene il Bayern. Sì, con in più la suggestione della finale in casa. Certo, che si giocherà proprio a Monaco di Baviera, quindi è un richiamo in più, insomma, un motivo di impegno in più. Sì, per... però ci arrivano poche volte le squadre che hanno la finale in casa. È vero. Non è usualissimo. Sì, è vero, anche questo. Fabio, come si rientra nei campionati, così per concludere questa settimana internazionale? Nel senso che in Italia si rientra con una sfida teoricamente ad alto livello, ma solo teoricamente, che è Inter-Roma sabato, e una invece praticamente ad alto livello, che è Napoli-Milan domenica. C'è qualcosa del genere anche altrove? Beh, direi di sì, perché domenica c'è Manchester United-Chelsea. Io credo che sia una bella prova, più per il Chelsea in questo caso che per il Manchester United. Credo che il Chelsea sia in una buona crescita, credo che il Chelsea sia una squadra destinata a crescere. Anche aver visto Torres con un po' più di sorriso, a parer mio, è comunque una buona cosa. Comunque una buona cosa per Village Boas. Credo che il Manchester United sia più forte, però penso che saremo tutti molto curiosi di vederla questa partita. Il Manchester City gioca contro il Fulham a Craven Cottage, sempre domenica alle 15. Per quanto riguarda la Premier, direi molto altro non segnalerei. L'Arsenal gioca contro il Blackburn sabato nella partita delle 13:45, quindi direi che questo è, se non Tottenham-Liverpool, che si gioca alle 14:30 ora italiana di domenica. Mi sembra un discreto sottoclou per arrivare preparati a Manchester United-Chelsea. In Spagna, grandi cose, però aspetta, in Spagna bisogna dire che vista la seconda giornata nella quale il Barcellona ha lasciato due punti, onestamente adesso c'è la curiosità di vedere se qualcosina lascerà il Real Madrid, che gioca contro il Levante, che ha pareggiato le prime due, la prima col Getafe e la seconda col Racing. Il Barcellona torna a giocare in casa contro l'Osasuna, l'Osasuna ha pareggiato la prima contro l'Atletico e poi ha vinto contro lo Sporting, quindi insomma, è una squadra che non ha ancora perso, quindi teoricamente può essere un ostacolo non banale. Poi si vedrà, ne riparliamo martedì. Volentieri, grazie a Fabio Tavelli, lo lasciamo tornare di gran carriera, sprombattuto al tavolo di conduzione di Sky Sport 24, grazie per l'intervento puntuale e documentato anche di oggi. I primi interventi vostri, Giorgio Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, io sono un tifoso interista abbastanza preoccupato dalla situazione attuale, non peraltro per l'allenatore, ma perché non vedo un ricambio generazionale dei cosiddetti campioni. Questo per la società che non ha voluto investire su dei giocatori che vadano a cambiare i vari Cambiasso, Zanetti, Stankovic, ma questo va dato colpa anche a loro, perché secondo me in molti casi non hanno voluto loro avere dei ricambi alle spalle. Purtroppo l'età passa per tutti e non la possiamo fermare nel momento in cui vogliamo noi e nelle condizioni di forma che vogliamo noi. Gli anni passano e bisogna avere anche il coraggio di dire di farsi da parte oppure far crescere un giovane alle spalle. Ma insomma, in genere non funziona così. In genere non è il calciatore che dice: beh, io sento che non sono più lontanissimo dalla frutta e quasi quasi vi suggerirei di prendere uno a posto mio. Insomma, in genere sono le società che pensano a queste, le guide tecniche, magari l'una e l'altra cosa. Per esempio, in Inghilterra funziona con questo allenatore manager, no? Di cui Ferguson è il massimo e più autorevole rappresentante. Dopodiché sì, è vero, cioè è il ricambio alle vecchie glorie che mi sembra stia mancando, in particolare all'Inter, ma imputarlo a loro, ecco, mi sembra una chiave di lettura abbastanza singolare. Fausto Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi trovo abbastanza d'accordo con il commento che ha fatto adesso questo ascoltatore. L'unica cosa che volevo far notare, se lei ha fatto caso, un paio di sovrapposizioni o pseudotali che ha fatto Jonathan ieri sulla fascia, se ci ha fatto caso, perché sono state, stringeva il centro, bloccava l'azione. Fausto, non ci ho fatto caso perché in tutta onestà mi sembrava che Manchester City-Napoli avesse un altro richiamo rispetto a Inter-Trabzonspor. Poi non mi figuravo che andasse così, se no magari ci avrei buttato un occhio anche a quella, ma sinceramente che l'Inter potesse perdere in casa con una squadra turca nemmeno di primissimo livello non me l'aspettavo. Dicevo solo che si butta la croce addosso a Gasperini, ma io, chi ha fatto certi acquisti quest'anno, non lo so, forse magari è più colpa di chi è andato a prendere questo. Tutto lì, grazie. Grazie a lei, ma insomma la croce su Gasperini proprio non mi sembra granché giustificata, no? Non mi sembra granché corretta, nel senso che intanto... No. Non si è autoinvitato lui ad allenare l'Inter, qualcuno l'ha pur chiamato. Si sa bene che non solo non era la prima scelta, ma nemmeno la seconda o la terza. Ad un certo punto l'Inter ha deciso di puntare su di lui. Immagino, mi auguro che ci sia stato tra lo staff dirigenziale e lo staff tecnico, ci sia stato uno scambio di punti di vista, sia per quello che si poteva fare in entrata e in uscita, sia per un'impostazione di base, sapendo oltretutto che Gasperini gioca di preferenza un calcio con un modulo abbastanza soggettivo, abbastanza particolare. Poi se non c'è stato chiarezza in tutto questo, forse non c'è stato chiarezza in tutto questo, e mi sembra che i primi risultati si comincino a vedere. Stefano Napoli, buongiorno. Garanzini, buongiorno. Dica. Mi permette prima una frase in diretta novità. Ieri al gol del Mazzador Cavani o Barcone mi sei scarrubata. Detto questo, volevo una sua considerazione. E noi all'inizio di questa partita avevamo un po' di timore, le posso dire al buon napoletano, ma vedendo ieri il Napoli prima con il Manchester e poi con le altre che avevano dopo, io sono molto fiducioso. Lei cosa ne pensa? Sì, credo che queste due prime uscite autorizzino molta fiducia e parecchie speranze. Non so, anzi escludo, se posso dire escludo, che il Napoli possa reggere ad alto livello, ad altissimo livello su tutti e due i fronti. Quindi non so cosa augurare al Napoli, no? Di essere più brillante da una parte e meno dall'altra, insomma, in maniera da liberarsi di uno di questi due impegni, perché mi sembra mentalmente troppo, se non altro, se non da un punto di vista organico. Però insomma, siamo a settembre, queste scelte si può tranquillamente farle più avanti, no? Eventualmente, e poi magari invece i risultati cambieranno. Detto questo, mi pare che la partenza sia stata come meglio non si poteva, come lei ha sottolineato in questa maniera così pittoresca. Cambiamo temporaneamente capitolo, fino a un certo punto poi, nel senso che con l'avvio del campionato sono andate a regime anche tutte le trasmissioni televisive dedicate al pallone. Allora la domanda è, dopo la prima giornata per l'appunto, come sono cambiate? In meglio, in peggio? Si sono arricchite, si sono impoverite? Lo chiederei al critico televisivo di Repubblica, Antonio Di Pollina. Buongiorno Antoine. Buongiorno, eccoci, ciao. Sì, ti facciamo così. Che cosa c'è di significativamente nuovo? Potrebbe essere la prima domanda. Sì. Vuoi una risposta diplomatica? Sì. Fondamentalmente partiamo con qualcosa di diplomatico. No, segniamo qualcosa. Potrei dirti che in via ufficiale la cosa che si va profilando come cosa davvero nuova rispetto al passato, e questo la dice lunga, è la ritrovata centralità di una cosa che si chiama Domenica Sportiva, un programma glorioso della Rai serale, che da quest'anno va in onda senza concorrenza diretta da parte di Mediaset, da parte di Controcampo, per capirci, che ha scelto una via notturna quasi radiofonica per andare in onda, e domenica scorsa ha fatto quasi il doppio degli ascolti di quello che faceva regolarmente negli anni passati. Quindi, come dire, il sospetto nell'ambiente è che per vari motivi e per un concorso di colpe più che altro, sì. Ci sia questa incredibile, da un certo punto di vista, ripresa della centralità appunto di una cosa che si chiama Domenica Sportiva, quando la si era data completamente per dispersa, quantomeno affievolita negli anni, quantomeno in declino. Però vediamo che cosa succede andando avanti. E poi, vabbè, l'offerta clamorosa è sempre quella, io insisto, è sempre quella delle partite, così, quelle che si pagano, quelle a pagamento delle due pay TV, direi assolutamente ancora rinforzata rispetto al passato. Stiamo velocemente arrivando, come è stato fatto notare, a una partita ogni sera della settimana garantita su qualche schermo, una o più, qui ormai siamo a 4-5 contemporaneamente per chi fosse in grado di dotarsi di parecchio. Che altro dire? Che c'è Sky che ha modificato parecchio il suo parecchio, che ha modificato nella sostanza, diciamo, il suo Sky Calcio Show post partita della domenica pomeriggio. Questa è stata la cosa che un po' che è balzata all'occhio, con Mario Sconcerti eclissato a tarda sera, con una scelta che vabbè è assolutamente pesante, e con altre persone che lo sostituiscono. Pesante in che senso? Parleremo. Pesante in che senso? Pesante perché anche da questo, ripeto il vocabolo centralità, che oggi mi viene da dire centralità, sì, la centralità del commento e dell'orientare non solo un programma, ma anche tutto il post partita, diciamo, del campionato di Serie A negli anni scorsi ruotava abbastanza intorno alla figura di Sconcerti, cui umore, in cui poi si poteva essere d'accordo o meno, per carità, ma la cui presenza e autorevolezza nell'occasione segnava abbastanza il territorio. Ecco, non essendoci questo, Sconcerti è stato sostituito da alcuni virgulti giovani ed emergenti che si fanno molto notare, ma è chiaramente un'altra storia. Sì. Non penso che tu voglia considerare una vera e grossa novità, anche perché non c'è ancora stata il debutto, che sarà solo però domenica prossima, di quelli che è il calcio con la nuova conduzione di Vittoria Cabello. No, ma vedi tu, eventualmente posso parlare anche di questo. Io ti ringrazio molto e mi compiaccio per la documentazione. Insomma, se riusciamo a non arrivare fin lì, sinceramente ne avremo, credo, tutti da guadagnare. Hai detto un sacco di cose interessanti e non ho voluto... Mi sembrava il minimo di non interromperti. Certo che a proposito di giovani virgulti, io credo che per, non certamente è il tuo caso, ma chi se la fosse persa potrebbe godersi questa performance che abbiamo isolato di una domanda fatta domenica da parte di chi ha preso il posto di Mario Sconcerti in studio a Sky, fatta a Luis Enrique, spiegando prima che Luis Enrique parla perfettamente l'italiano. Questa è la domanda. Bienvenido a Italia en todos los sentidos, Mr. Enrique, pero... Gracias, muy amable. No, muchas veces, a mí me gusta más ir al mini estadio en Barcelona que al Camp Nou muchas veces, porque creo que hay una ritualidad, una educación, una visión del fútbol que no tiene igual en el mundo. Pero en esta temporada, la de aquí, y Billy Costa Curta lo puede explicar mejor que yo, a hoy me pareció una falta de urgencia. Más educados que nunca, pero este equipo ha jugado en otra manera. En el final del partido con Borriello, un cabezazo, no sé, un fútbol más sucio, pero más eficaz. No, non c'era uno domenica in diretta, non c'è uno qui adesso in studio regia che non abbia le lacrime agli occhi, evidentemente. Io non so se ha fatto lo stesso effetto a te, caro Antonio. La faccia di Luis Enrique alla fine di questi 38 secondi e un decimo era qualcosa di memorabile comunque. Sì, anche perché fino a quel momento si era svolto tutto in italiano, poi ogni tanto Luis Enrique andava un po' con un po' di spagnolo, ma assolutamente comprensibile, trattandosi di spagnolo poi bene o male, cioè, ce la caviamo più o meno tutti. E invece non il nostro così, uomo, però, non così, diciamo chi è innanzitutto, Federico Buffa. Si chiama Federico Buffa, è un esperto di anche un po' abbastanza di lungo corso di sport internazionale a ogni livello e soprattutto americano, e adesso promosso nell'occasione, è uno di quelli che, come dire, vogliono un po' strafare, cioè non hanno ma appena appena no. Non hanno molto il senso quello lì, che magari a noi piace un po' di più, quello di essere un po' disincantati anche in queste cose e di non esagerare mai. Invece fa dell'esagerazione una sua cifra e infatti funziona dal suo punto di vista, nel senso che se ne parla e così via. Poi la reazione è effettivamente quella. Uno dei reduci là dentro, per esempio, del programma è Massimo Mauro, e bastava già la faccia che faceva lui in diretta di fianco a questa esibizione assolutamente esagerata, diciamo così, per far capire cosa stava succedendo. Ecco, adesso i casi sono due: o lui, visto anche tutto quello che hanno detto più o meno tutti dopo queste esibizioni, si ridimensiona e capisce un po', oppure diventa nettamente il personaggio televisivo dell'anno da qui in avanti, e avremo da divertirci tutte le settimane. Sì, a divertirci. Dunque, no, parlavi di centralità di domenica sportiva, eccetera. Mi veniva a pensare che non, per carità, forse la fedeltà ad una formula paga, sicuramente non, sicuramente c'è un effetto gnocchi, io credo, perché poi la popolarità di Gene Gnocchi, la sua verve, soprattutto in una fase iniziale, è molto alta. È meritorio anche che ci sia un effetto gnocchi e non un effetto gnocca, no? Pensando ad altri programmi, magari, penso, così, se vogliamo. Penso te la faccio passare, sì. Così, senza problemi. Sì, sì, sì, da questo punto di vista direi che si punta ancora su schemi che noi consideriamo più che accettabili, diciamo. Certo. Senti, Ranieri mi sembra un non so quanto possa durare, anche perché bravo. So quanto possa durare, ma mi sembra una novità molto lieta in questo panorama. Stavo per dirlo io, perché bene. Potrebbe anche essere che domenica prossima non sia più l'opinionista e sia a fare altro nella vita, però sì, lui ha un buffo eloquio e ogni tanto parte con degli anacoluti che fanno la gioia di chi raccoglie queste cose, però è chiaramente uno che ne sa, che sa dire, e che se ogni tanto gli scappa anche un po' il pedale della frizione, perché un minimo tirato deve stare, visto che in teoria lui nella vita vorrà ancora allenare, e come, è uno che sa dire determinate cose. Ha fatto domenica proprio anche una lunga spiegazione, che non era per niente noiosa, di cosa succede nelle squadre in difficoltà, sì, in questo periodo dell'anno, che alla fine quasi si mettevano ad applaudire in studio. Per dire, non sto dicendo che siamo al miracolo assoluto e totale e tutto, ma per il panorama complessivo è di quelli per cui se succede una cosa di questo genere, e Ranieri impone momenti di questo genere, chiaramente lo sa fare. Dopodiché ci sono anche dei margini di divertimento appunto per noi, perché ogni tanto parte con romanismi o cose di questo genere. Non dimentichiamo che lui è un vecchio fautore, anche un vecchio fornitore assoluto di cose divertenti da questo, certo, punto di vista, più o meno volontariamente. Da testaccino che potrebbe dover risciacquare i panni non in Arno ma in Naviso, da tante parti potenziali, no, in questo potrebbe periodo. Potrebbe anche domenica avrà già altro da fare. Hai visto mai? Noi siamo arrivati alla fine di questo, devo mandare le notizie del traffico. Vuoi restare collegato? Stiamo qui. Ah, quindi pensi di poter affrontare anche quest'altro capitolo? Siamo rimasti in compagnia di Antonio Di Pollina e a noi due, Di Pollina, a me è indirizzato questo messaggio firmato Giacomo. Federico Buffa è un ottimo giornalista, una bravissima persona, sicuramente capisce di calcio molto, ma molto più di Mauro Sconcerti d'Amico e tutti gli altri mezzi giornalisti che popolano la TV italica. La firma è Giacomo, non Giacomo Buffa, è Giacomo, e non credo però, Antoine, che noi abbiamo detto che non sia un ottimo giornalista. Non l'ho assolutamente escluso, anzi è una bravissima persona. Io ho anche dei colleghi, delle cose che mi rimproverano di averne parlato bene, di averlo indicato a suo tempo come uno che sapeva evidentemente un sacco di cose. Abbiamo solo detto che probabilmente serve un po' più di senso del limite e di non esagerazione in queste cose, e di essere un po' più disincantati sulle cose. Dopodiché, per carità di Dio, ci mancherebbe altro, mica ci mettono uno che non sa niente. Ma è chiaro che con delle performance di quel genere vanno a suo discapito. Si parla poi solo di quello e non del fatto che magari delle cose intelligenti. È semplicemente una notazione tranquillissima. Sia tranquillissimo l'ascoltatore Giacomo. Il cognome va bene. Dunque, di Ranieri abbiamo detto dell'effetto Gnocchi, abbiamo detto della centralità sorprendente riconquistata dalla Domenica Sportiva. Questo collegamento, che doveva concludersi due o tre minuti fa, in realtà continua ancora per un altro paio di minuti per una domanda. Ho letto stamattina un'agenzia in cui dice che la SNAI comunica che 10.000 persone, 10.000 scommettitori avevano giocato l'Inter perdente a 8. Allora volevo domandare a un vecchio cuore nerazzurro se che ha la curiosità, il vezzo ogni tanto di indulgere a una scommessa, ce l'ha, o perlomeno l'aveva in passato. Volevo domandare se per caso tra questi 10.000 c'eri anche tu, insomma. No, arrivo a tanto, perché poi entro in un conflitto di interesse in questo caso che non va bene e non mi fa godere appieno le partite, però a 8 aveva assolutamente un senso puntarci, non la casa, ma qualcosina si poteva puntare, il fatto che l'abbiano fatto in parecchi vuol dire che appunto il senso c'era. Poi mille volte con le occasioni che non entrano finiva in un altro modo e staremmo a fare altri discorsi, ma messa in questo modo la cosa ha una logica, e buon per i 10.000 che hanno scommesso in quel modo. E quindi io chiuderei con questa eventualità che Ranieri, che insomma non dico, appunto, come tu stesso hai sottolineato, non è che sia la scoperta del secolo, ma insomma è una new entry gradevole, no? Sia dal punto di vista della presenza in studio che, a parer mio, soprattutto della telecronaca. Mauro, ecco, chiudiamolo con questo messaggio firmato Mauro: ma ve la vedete la faccia di Mourinho se l'Inter davvero prendesse Ranieri? Bisogna vedere la gradazione della domanda, quanti sottintesi ci sono. Vuol dire che Mourinho potrebbe anche avere voce in capitolo o dare delle indicazioni da questo punto di vista? Così. Secondo te il nostro ascoltatore ipotizza non credo. Più che maliziosamente che una cosa di questo genere? No, non penso. No. Questo non lo credo. La faccia di Mourinho eventualmente la vedremo. C'è da augurarsi per i tifosi dell'Inter che tutto invece rientri in una normalità, che qualcosa succeda, ci sarebbe un gran bisogno, ecco. Mi pare di capire che la tua linea è l'importante che qualcosa succeda presto, insomma. Sì, un segno di cambiamento, perché la desolazione vera è pensare a questi due mesi che sono trascorsi così, evidentemente allestendo un modulo, insegnando un'altra percezione di squadra, un'altra percezione di gioco, almeno a quello che ci hanno detto, e in due mesi nessuno si è alzato all'interno a dire scusate, ma non sta funzionando niente, ma neanche scusate, cosa stiamo facendo esattamente? Certo. E scoprirlo poi alle partite ufficiali non è una bellissima cosa. Grazie Antonio. Grazie a voi, ciao. Chiudiamo il collegamento con Repubblica. Marco ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo chiederle del Napoli. Sì. Secondo lei obiettivamente ha giocato bene il Napoli? Perché a me non è sembrato. No. No, ho visto tante volte che perdeva il pallone, cioè più che altro passaggi sbagliati, e arrivava spesso volte in ritardo sulla palla, commettendo dei falli. In ritardo sulla palla questo. Mica tanto, perché la condizione... Sono parecchie munizioni, no? Secondo lei, sui difensori anche. Secondo me il Napoli ha giocato un'eccellente partita ieri sera, da tutti i punti di vista, singoli, collettivo. Preparazione, condizione, mentalità, atteggiamento, quindi sono in totale disaccordo con lei, anzi sai che facciamo? Per introdurre la rubrica di Nicola Filippone, cioè per vedere che cosa ci ha trovato per ricordare il 15 settembre, e cioè la data di oggi, le anticipo che cosa Nicola Filippone ha scritto 10 minuti fa, dopo aver ascoltato l'intervento di un ascoltatore di prima, ha scritto: anche o balcone mio si è sgarrubato. Sentiamo il 15 settembre. Sembra ieri. 15 settembre 1982. Primo turno di Coppa delle Coppe. A San Siro, l'Inter di Marchesi ospita i cecoslovacchi dello Slovan Bratislava, un avversario ampiamente alla portata, che però resiste fino al 78esimo, quando Altobelli sblocca il risultato, mentre 5 minuti dopo Sabato segna il definitivo 2-0. La gara non sarebbe passata alla storia se non si fosse verificato un episodio curioso, che vede protagonista l'idolo dei tifosi nerazzurri, Evaristo Beccalossi, che sbaglia ben due calci di rigore. Il singolare record avrà addirittura un futuro teatrale, immortalato in un monologo del comico interista Paolo Rossi. E la mise sul calcio del dischetto del rigore con la sicurezza dell'uomo che non avrebbe risbagliato! E risbagliò! E io pensai, questi per me sono uomini veri, un po' sfigati, ma... E questa fu la famosa gag che Paolo Rossi che Paolo Rossi ricavò da questo doppio errore dal dischetto del suo idolo Evaristo Beccalossi. Mi pare che non ci sia più spazio per un ascoltatore già collegato da Milano. Paolo, mi dispiace, sarà per la prossima volta. Il tempo che ci rimane serve a ringraziare Mauro De Angeli in regia, Franco Piantanida in redazione, e a darvi appuntamento alla, per quanto mi riguarda, alla prossima settimana. Buon pomeriggio.